Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Sono le 8:18 minuti. Buongiorno. Eccoci, come andiamo? Tutto bene, tutto bene. Allora, questo 30 marzo, vediamo un pochino innanzitutto quali santi più o meno strani ci sono. Innanzitutto, io sono piemontese, quindi il patrono di Asti, San Secondo, che non c'entra con San Secondino, che non è neanche suo figlio, però insomma, San Secondo. Poi, Leonardo Murialdo, questo per chiunque sia cresciuto a Torino, insieme a Don Bosco, è il santo sociale della città dell'Ottocento, per definizione, quindi fondatore, insomma, una specie di operaio, ma con i voti, e quindi ricordiamolo. L'operaio poi, con i voti, che non sono, sono i voti e da santo. In quei tempi erano i voti presi per gli unici voti che contavano. Esatto, poi sono diventati quelli delle correnti e dei partiti, invece. Tanto per non dimenticare che la Chiesa premia sempre i principi, il terzo duca di Savoia, e quindi abbiamo un santo, questo Alessandro, il terzo duca di Savoia Alessandro, che è morto nel 1472. Poi santi strani: Donnino, Regolo, Osburga, Donnino, San Donnino, e c'è anche un San Clino oggi. Mm-hmm. E quindi va bene. In questa giornata nacque Van Gogh, però morì anche Franco Califano nel 2013. Ah, e quindi mischiamo il sacro e il profano. Franco Califano. Sì. Che io ho costato sempre una specie di simbolo di tutte le contraddizioni romane. Cioè, io vedo nella Roma eterna del Giusti, del Pasquino, e anche di Mafia Capitale, c'è tutta in calo nel personaggio Califano. Io continuo a pensarla così: le grandezze, le miserie, le contraddizioni, le violenze. Era un personaggio tutto, così. C'è tutto. Ma adesso avremo anche il Tevere balneabile, la sai, quest'ultima. Sì, questa bella promessa. Sì, sì, sì. Bertolaso ha detto che se sarà sindaco avrà il Tevere, renderà balneabile il Tevere. Anzi, te lo faccio sentire. Sì, sì, senti, vale la pena. Vale la pena. Se sistemiamo bene tutti i depuratori e facciamo una gestione delle fogne migliore di quella che c'è adesso, il Tevere può davvero diventare balneabile. Entro la fine del suo primo mandato? Ma 5 anni ci vogliono tutti. 5 anni ci vogliono, ma insomma, poi io me li vedo già i romani con costumi. Tirate fuori i costumi, come cari. Come a Parigi. Per un bel tuffo, un bel carpiato nel Tevere. Tutti alla Rivgo. Ma dai, insomma. Ma perché sei un uomo, sei un pessimista? Io sono un pessimista. Sì, sei un pessimista. E sì, diciamo che ormai si è perso il senso della misura nella, diciamo, quel circo barnum che è diventata la politica italiana. Il senso della misura si è perso. Le elezioni sono anche, diciamo, la fiera delle promesse, no? Un pochino. Ho capito, questa è un po' troppo. Un candidato, dici, che non si riesce a capire a nome di chi, per quanto tempo e quali valigie aperte e chiuse. Cioè, e lui è l'altra faccia del libro dell'ex sindaco Marino. Con la vendetta, non mi hanno più voluto, mi hanno detto prendi l'aereo. Giovedì esce il libro. Infatti, vedi, ci sono le prime anticipazioni. Se vuole Ignazio Marino, ne siamo qua. Per la verità siamo qua da 2 anni, se lo ritiene, se ritiene di accettare l'invito. Ma come noi facciamo delle domande, credo che saremo finiti anche noi nella lista nera. Sai com'è, i politici oramai, destra e sinistra, non piacciono quelli che fanno delle domande strane, che credono di avere delle domande. Sì, vogliono solo dare risposte, ma alle loro domande. Microfoni, come un certo, ti ricordi quello della la Lira TV, quello che si sente meno, ma più o meno il modello è quello. Lira TV è la nostra TV mitica, quella con il governatore De Luca, che non risponde a domande, fa dei comizi, diciamo. Esatto. Va bene, insomma, comunque San Donnino è piaciuto molto, anche gli ascoltatori. San Donnino, bellissimo. San Donnino. Ci scrivono che c'è un San Donnino vicino a Firenze. Sì, ma pensa se uno avesse un bambino e lo chiamasse Donnino. Donnino. Subito direbbero la cultura transgenica. E invece no, invece c'è no, un San Donnino. San Donnino. Come no? Come no? No, comunque, caro Oscar, oggi noi dovremmo parlare di Giulio Regeni. Ma sì. Io un pochino mi interrogo anche dello spazio, della rilevanza data a questa vicenda, che è una vicenda tragica, drammatica, eccetera. Ieri c'è stata questa conferenza, tra poco avremo il senatore Manconi ai nostri microfoni. Conferenza stampa della famiglia. Conferenza stampa della famiglia. Tra l'altro ci si chiede anche, ma si possono fare delle rotture vere, serie, invece di minacciare e basta, tra Italia ed Egitto in questo caso? Si possono e si devono. La realtà è che meno si ricorre nella storia a rotture, quanto più si ha la capacità di dire delle parole autorevoli in cambio delle quali o vengono delle prese di posizioni serie o si va a rotture serie. Questa è la storia dei paesi, diciamo, che hanno una loro credibilità nella scena internazionale. Noi ricordiamo che il caso Regeni, Giulio Regeni, tragicamente ucciso a Cairo, non è poi un'eccezione, che non ce ne occupiamo. Negli ultimi 12 mesi sono stati rapiti 88 italiani nel mondo, 88. Abbiamo avuto di Giulio 8 Regeni uccisi. se ne parla molto, ecco, di più. Ma questo per dire che il nostro paese ha un problema serio di credibilità. Quando si tratta di grandi paesi di mezzo, come l'Egitto o come l'India per il caso dei Marò, l'Italia non è efficace nella tutela della libertà e della vita dei suoi cittadini all'estero. È così. Per esempio, la Russia ha interrotto i collegamenti Egyptair con la Russia e ha interrotto i voli della Russia su Sharm el Sheikh dopo che c'è stato l'attentato. Mm-hmm. Non ha rotto le relazioni diplomatiche o le relazioni commerciali. Però, come si vede, c'è una panoplia di sistemi che si possono utilizzare per dare una misura dell'efficacia e della durezza della reazione a delle versioni che sono state un'arrampicatura sugli specchi pazzesca, sempre più incredibile. Eppure l'unica cosa che il governo italiano ha detto è: beh, aspettiamo il 5 aprile. Adesso... aspettiamo il 5 aprile. Il 5 aprile dovrebbero arrivare qui gli inquirenti egiziani per uno scambio, come dire. E lì Gentiloni oggi sul Corriere, Gentiloni ministro degli esteri, dice: o il 5 aprile ci dicono qualcosa, un cambio di passo, oppure trarremo le nostre conseguenze. Ma siamo segnala l'Italia all'ambasciatore subito, dai. In attesa del 5 aprile, proprio nel frattempo dare la forza segnale di una reazione, dicendo: o venite qui con carte, tabulati e cose credibili, oppure ne pagate le conseguenze. Oltretutto, ne pagate le conseguenze significa, per la situazione che c'è in Libia, mettersi per traverso rispetto alla presenza francese egiziana al confine occidentale dell'Egitto, che quello interessa come fascia di sicurezza al Cairo. Quindi non è vero che non abbiamo strumenti anche molto rilevanti per pesare in questa vicenda. Tu dici il ritiro dell'ambasciatore. Entro il 5 aprile hanno preso questo impegno, dopo queste versioni, una meno credibile dell'altra. Allora, nel frattempo l'ambasciatore viene richiamato, come si chiama? Non è un ritiro, si viene richiamato a Roma per delle conversazioni e confronti. Ma il segnale che gli dai è: dovete arrivare con cose credibili e concrete, perché altrimenti c'è un'escalation che parte. Guarda che il ritiro dell'ambasciatore credo che sia una delle proposte che il senatore Luigi Manconi, che presiede la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ha lanciato. Senatore Manconi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dovremmo averlo già ritirato, secondo lei, come segnale? Oscar Giannino dice: beh, come primo segnale andava già fatto. La penso anch'io così, perché voglio chiarire: esiste la procedura del richiamo per consultazioni, che non significa il ritiro definitivo, cioè la rottura insuperabile una volta per tutte delle relazioni diplomatiche. Significa dare quel segnale forte che i familiari hanno chiesto ieri nella conferenza stampa. Perché voglio ricordare due fatti che non sono stati forse adeguatamente chiariti. Intanto, il 5 aprile non c'è un incontro tra le procure, come troppi hanno detto. Sì. C'è un incontro tra gli investigatori di polizia egiziani e gli investigatori di polizia italiani. Sì, peraltro, Gentiloni dice oggi al Corriere non lo hanno ancora confermato. No, quindi non è confermato. Questo è stato, diciamo, stabilito in conversazioni telefoniche. Sì. Dunque siamo in una dimensione tutta approssimativa, tutta precaria. Seconda chiarificazione importante. Guardate che l'unico atto formale, diciamo così, col timbro dell'ufficialità del regime egiziano è stato quel comunicato nella notte tra il 24 e il 25 marzo, in cui si forniva quella versione indecente. Sì, i cinque uccisi, cioè i cinque uccisi in Egitto, e hanno ritrovato a casa loro degli oggetti che... Atti formali non ne sono arrivati. avanti, perché poi c'è stata un'intervista del Ministero degli Esteri a un giornale egiziano, una parziale rettifica di quel comunicato da parte di altre fonti del Ministero dell'Interno. Siamo in presenza, chiedo scusa se può sembrare retorica, di un oltraggio quotidiano alla nostra sovranità nazionale, cioè al fatto che siamo una collettività che ha una sua dignità fondata sul rispetto delle leggi. Ecco, questo chiede atti forti. Sì, lei, senatore Manconi, ieri ha visto, appunto, incontrato i genitori, si è parlato anche, qualcuno ha chiesto alla madre se sia disponibile addirittura a mostrare quelle foto, e la madre ha detto non l'ha escluso, dice vediamo il 5 aprile, ma perché? Guardi, io ho la tragica esperienza personale di aver contribuito, non sa con quanta sofferenza, alla conoscenza pubblica delle foto di Stefano Cucchi, riprese in obitorio, della foto di Giuseppe Uva ripreso in obitorio e del video della morte legata a un letto di contenzione di Franco Mastrogiovanni. È un atto il più crudele immaginabile, perché, come dire, rende pubblico e quindi in qualche modo osceno ciò che dovrebbe essere riservato al dolore più intimo, più riposto, più riservato. Nel caso della famiglia Cucchi, Uve e Mastrogiovanni, la decisione è stata presa perché sembrava, come dire, indispensabile far conoscere a tutti quello strazio che sembrava invece destinato all'oblio. Certo. C'è da dire, Oscar, che... scusate un secondo, io mi auguro che non avvenga. Cioè, no, non ha nessun... chiaro, se noi siamo al punto non di dover... Non deve avvenire. Se avviene, vuol dire che... Se siamo al punto che non ci sono risposte, le prove di uno strazio, di cui sappiamo che è uno strazio. Siamo in una situazione estrema dove lo Stato italiano in quel caso significa che rinuncerebbe alla capacità di esercitare pressione e forza democratica. Perché voi dicevate prima una cosa, l'ho sentita, come dire, fuggevolmente: l'Italia è in una posizione di forza nei confronti dell'Egitto. È questo quello che viene ignorato. Non è che noi abbiamo tutto da perdere, è l'Egitto che ha più da perdere di quanto abbia da perdere l'Italia. La si eserciti questa capacità. Ma qua, senatore Manconi, si parlava appunto a volte un po' della pavidità del nostro ruolo a livello internazionale, che a volte mostriamo, no? ci mostriamo un po' più. Ma a volte, secondo me, inspiegabilmente nella storia, adesso io non voglio parlare nella vicenda in sé di cui non ho gli elementi diretti, quindi non equivochi l'ascoltatore, non sto parlando adesso, non sto attribuendo l'atteggiamento italiano a improprie pressioni di gruppi pubblici, però nella storia è spesso capitato però che poi sulle posizioni assunte dal personale diplomatico italiano e anche sulla politica ci siano state improprie pressioni di fondamentali gruppi pubblici, il settore energetico, che fanno prevalere l'interesse di dire ma su state buoni, quando invece la tutela proprio anche dell'interesse strategico italiano si tutela anche con la forza quando è necessaria delle reazioni, che in questo caso mancano. Ma voi ve la ricordate l'intervista in due puntate di Al-Sisi? Sì, su Repubblica, in cui nella Repubblica. Seconda puntata si, tra virgolette, minacciava l'Italia, perché questo era il punto vero di non intervenire in Libia, cioè, ma certo, dicendo guardate che non vi conviene, diceva a un certo punto Al-Sisi. Ma insomma, ma, senatore Manconi, ovviamente non è lei a dover dare queste risposte, visto che lei pone delle domande, ma lei e tramite la famiglia si sono dati una idea la più plausibile di quello che potrebbe essere successo a Giulio Regeni? No, devo dire che a mia conoscenza, e ho avuto occasione di parlare ripetute volte con i genitori, non c'è, come dire, un'interpretazione dominante. Quello che appare innegabile e che in questo massacro, si tratta esattamente di un massacro di un corpo, certamente sono intervenuti, tutto lo dimostra, apparati statuali. Poi questi apparati statuali sono collegati ad altri extralegali, sono un corpo misto dove intervengono in maniera concordata pezzi dello Stato egiziano e gang criminali. Quello che sembra innegabile è che c'è stato indubitabilmente, e le tecniche, è osceno parlare di tecnica, ma di questo si tratta, delle torture inflitte a Giulio, dimostrano l'esistenza di una competenza specifica negli atti di sevizie, cioè in quei trattamenti inumani e degradanti che solo un apparato statuale addestrato può esercitare. A proposito di apparati statali, sa che c'è questa domanda che molti si sono posti, li hanno posta anche ai genitori, no? Se Giulio Regeni fosse in qualche modo collegato ai servizi segreti italiani. La madre dice no, come provano i suoi conti bancari, non c'è nessun legame. Però perché dobbiamo totalmente escludere questa ipotesi, senatore? Guardi, quella domanda posta nella conferenza stampa di ieri è stata accolta con la massima serenità. Io ero proprio era presente, loro, in mezzo a loro, e quindi sussurravo e mi sussurravano all'orecchio senza alcun imbarazzo. Le risposte sono state semplici e lineare, e la signora ha aggiunto la risposta esattamente alla domanda che lei pone, cioè, e seppure fosse stato membro dei servizi, cosa che sono sicuro al di là di ogni dubbio non è e non è stato, sono anche quelle delle attività che, se svolte legalmente, non devono essere occultate e tantomeno devono portare a quell'esito. Quindi non ci sono domande imbarazzanti. Ecco, quello che mi preme dire è questo: non ci sono domande imbarazzanti. Ma poi, se mi permette, Manconi, bisogna anche essere molto fermi nel distinguere. Cioè, il tentativo delle autorità egiziane è da sempre quello di attribuire a un ricercatore che sul campo era impegnato nella ricostruzione di forze dell'ambito sindacale o dell'opposizione nel mondo del lavoro alle tecniche di governo autoritarie del regime di Al-Sisi, di attribuire a questo progetto di ricerca, perché era impegnato per questo anche per conto dell'università britannica, certo, per cui svolgeva la ricerca, come se si trattasse di attività spionistica per i servizi. Esatto. Mentre è ricerca sociale. Stiamo parlando di una democrazia. No, mi scusi, come così frequentemente accade che tutte le attività di indagine sociale, di ricerca, di monitoraggio delle realtà locali vengono dai regimi, esatto, e tanto più dai regimi dispotici, interpretati come interferenze illegittime, esattamente, come attività spionistiche guidate da governi ostili. Siamo davanti a una sceneggiatura ben conosciuta. Esatto, è come Erdogan che insulta Italia, esatto, Francia e Germania perché finalmente hanno mandato il personale diplomatico nel tribunale dove lui tenta di condannare i giornalisti che non sono asserviti al suo regime. Posso aggiungere una cosa? Sì. Perché questa vostra domanda appunto sulle tecniche di regime è davvero per certi versi interessante, anche se usare questo termine, questo sì, provoca disagio. Voi non so se avete evidenziato come nei confronti di Giulio Regeni è stato adottato una ipotesi, diciamo, interpretativa che valorizzava supposti elementi di ambiguità sessuale. Certo. Si è insistito sui seguenti dettagli: la camicia che avrebbe indossato sarebbe stata di color rosa, sarebbe stato il portafoglio con scritto Love, e poi un paio di occhiali femminili, un orologio femminile. Siamo di fronte alle più sordide fantasie dei funzionari di regimi di tutto il mondo, di tutte le dittature. È questo che dobbiamo evidenziare. Qui c'è stato, ripeto, la tesi della famiglia alla quale io semplicemente mi presto, offro la voce. Qui c'è stato un intervento indiscutibile di apparati dello Stato, di settori del sistema istituzionale di pulizia e di repressione dell'Egitto, e poi un'attività di disinformazione che ha fatto ricorso ai più torvi e abusati, stilemi, ai copioni più stantii, quelli che ovunque devono degradare l'immagine della vittima. Tra l'altro, c'è da dire che invece in intervista al Sisi, sempre a Repubblica, faceva capire che erano gli autori sono più da ricercare tra gli oppositori al regime più che altro. Ma comunque staremo a vedere. Senatore Manconi, noi la ringraziamo perché torneremo, ovviamente non molleremo la presa sull'argomento, per quello sempre che noi possiamo farci può valere informare. Poi noi sentiamo anche il dovere di dire abbraccio alla famiglia, è chiaro, ecco. questo sicuramente. La ringraziamo, senatore Luigi Manconi. Dopo la pubblicità continuiamo a parlare di terrorismo. Avremo un magistrato, Carlo Nordio, procuratore aggiunto a Venezia, per parlare insomma di questo Italia che, ma è davvero solo transito o i 299 arrestati per terrorismo in Italia dicono che non siamo solo transito? E poi questo veto posto dall'Italia alla Super Procura Europea, si può chiedere al governo e ai magistrati di spiegarci perché lo abbiamo messo? Cioè cos'è che in concreto non ci convince? No, perché si parla sempre di cooperazione internazionale, ma pare che gli italiani, anche noi italiani, non vogliamo questa Super Procura Europea. Però non abbiamo capito bene perché, no? Forse è il caso di chiarire. Lo chiederemo. Magari abbiamo ragione, però ce lo spiegassero. Tra poco, state con noi. Allora, caro Oscar, eccoci qui. Ieri quando eravamo in onda c'è stato questo dirottamento, poi rivelatosi per fortuna, insomma, un po' da operetta, un cretino come è stato definito. Però insomma, per ore, naturalmente, per ore il fiato è rimasto sospeso. Tanto che si parlava di sicurezza aerea, ci ha scritto un ascoltatore che ci segue da Abu Dhabi. Allora l'abbiamo chiamato Marco perché ci ha scritto una cosa interessante. Marco da Abu Dhabi, buongiorno. Lei ci ascolta? Buongiorno. Ci segue da lì e ci ha raccontato una cosa sulla sicurezza egiziana che ci ha un po' inquietato, o no? Esatto, io mi trovavo per lavoro al Cairo nel mese, diciamo fine dell'anno scorso, peraltro successivamente alla caduta del volo sul Sinai, sì. E quando sono tornato in aeroporto per rientrare a casa ho trovato un'enorme coda fuori dall'aeroporto del Cairo, peraltro l'aeroporto del Cairo è uno di quegli aeroporti con i controlli di sicurezza fuori dall'aeroporto. Sì. Quindi questo enorme assembramento di gente, io che mi guardo intorno un po' confuso, mi si avvicina un tizio e mi dice: vieni con me che ti faccio saltare la coda. L'ho seguito, abbiamo saltato la coda, abbiamo saltato i controlli di sicurezza, mi ha fatto entrare passando di fianco a quello che erano i controlli aeroportuali e poi mi ha detto se gentilmente potevo dargli qualche dollaro per questa gentilezza. E io lì per lì ho pensato, ho detto: ma adesso ci sarà un secondo controllo. Invece sono più o meno arrivato fino all'aereo senza bisogno di fare nessun altro tipo di controllo. C'è stato poi, proprio prima dell'imbarco, un controllo molto rapido in cui hanno semplicemente infilato la mia valigia nello scanner. Sì. Poi mi hanno detto: tira fuori tutto dalle tasche, tienlo in mano e passa sotto il metal detector. Io sono passato sotto il metal detector, ovviamente il metal detector è suonato perché avevo le chiavi, il cellulare in mano, e senza grossa preoccupazione mi hanno fatto salire sull'aereo. Insomma, Marco, del resto anche la bomba a bordo del velivolo che ricordava il nostro ascoltatore esploso sul Sinai, pare che l'abbiano messa a bordo esattamente con un criterio, pagando e girando il controllo, quindi insomma una certa porosità c'è. C'è. Comunque no, la ringraziamo per questa testimonianza che insomma è la testimonianza di un viaggiatore, ma con pochi dollari evidentemente si può superare la sicurezza. Qui però, caro Oscar, parliamo di altro tipo di sicurezza, no? La sicurezza internazionale che dovremmo tutti avere. Salutiamo Carlo Nordio, procuratore aggiunto a Venezia. Buongiorno, dottor Nordio. Grazie. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. La questione della super procura, si diceva, Oscar, che abbiamo letto sulla stampa, in realtà sì, noi abbiamo preso il giorno di Pasqua dal ministro Orlando su due quotidiani, la Stampa e il Messaggero, che a dicembre addirittura, poi come si possano tenere riservate queste notizie, che senso abbia tenere riservate per 4 mesi queste notizie, comunque a dicembre l'Italia avrebbe posto un veto a quella che alcuni chiamano l'FBI europea, altri chiamano la super procura europea, cioè un organo di cooperazione giudiziaria rafforzata e unitario, per così dire, quindi di livello superiore allo scambio delle informazioni tra i diversi apparati di indagine nazionale, che attualmente hanno un livello di cooperazione rafforzata solo per i reati, ricordiamolo, per i quali è previsto il mandato di cattura europeo. E l'Italia avrebbe posto un veto dicendo: ma così com'è non ci piace. Alcuni hanno scritto, uno dei due quotidiani ha scritto perché non è abbastanza efficace, un altro ha scritto invece, attribuito al ministro, la tesi perché come articolata non rispetta l'indipendenza della nostra magistratura. Siccome sono due questioni diverse, poi pare che nessun giornale prenda in mano la questione perché dicono è molto delicata, meglio tenere riservata. A me non sembra che sia molto utile tenere riservate queste cose. Se uno pone un veto spiega perché, no? anche perché se è un problema rilevante bisognerà anche far fare passi avanti all'Europa, quindi porlo pubblicamente. Magari ci sbagliamo noi e bisogna rassegnarsi agli arcana imperi. Io non credo molto agli arcana imperi, cioè io credo che l'efficienza venga dalla trasparenza quando c'è un dissenso pubblico. La questione è, dottor Nordio, serve questa super procura secondo lei? Ma guardi, anch'io sono rimasto un po' sorpreso perché ho preso questa notizia dai giornali anche in modo abbastanza parziale, come ha detto lei. Bisogna capire se si tratti di una FBI europeo, cioè di un organo di investigazione, o di una super procura che è un organo di magistratura inquirente. In questo secondo caso credo che servirebbe a poco, mi ricorderebbe molto l'euro che è stato costituito come moneta unica senza avere una governance politica e bancaria unitaria, cioè costruire una casa dal tetto piuttosto che dalle fondamenta, in quanto un organo inquirente comune presuppone che ci sia una procedura penale comune e anche un diritto sostanziale comune, e questo in Europa non esiste ed è di là da venire. Quindi se dovesse fare una procura puramente nominale, avrebbe ragione in questo caso il Ministro della Giustizia a dire che è meglio non farla perché non servirebbe a nulla. Altra cosa invece sarebbe un ufficio investigativo, un FBI europeo, di cui si sente effettivamente il bisogno, anche svincolato dalle singole magistrature, ma che risponda direttamente a un organismo politico unitario, che peraltro non c'è in Europa, ma che quantomeno si scambi i dati fondamentali che sono gli unici utili oggi per combattere questa forma di terrorismo, di fanatismo religioso strisciante e poi che esplode come abbiamo visto. Però a che livello è lo scambio? Perché dall'America dicono avevamo avvisato l'Olanda, l'Olanda dice avevamo avvisato il Belgio dice non è vero, nessuno ci aveva avvisato, cioè siamo guardi, a questi livelli. Per quanto ne sappiamo, perché poi ovviamente i servizi segreti sono segreti perché devono essere segreti, l'Italia in questo senso è molto avanti, anche perché noi abbiamo esperienza di terrorismo interno e soprattutto abbiamo esperienza di organizzazioni criminose, articolate e complesse, mafia, camorra, eccetera. E questo insegna agli inquirenti a, diciamo, tra virgolette, mettersi nella testa dei terroristi, cioè a ragionare come terroristi, cosa che per esempio molte polizie dell'Europa del Nord non hanno. Come scambio di notizie, si è visto il crack, il fallimento addirittura tra paesi contigui come il Belgio e l'Olanda, come il Belgio e la Francia, ma se si pensa che si discute ancora di estradizione tra Belgio e Francia, che sono paesi, possiamo dire, nemmeno cugini come noi, quasi fratelli, si comprende quanto sia ancora lontana un'integrazione europea sia a livello giurisdizionale sia a livello di diritto penale sostanziale. Per queste ragioni parlare di super procura europea sarebbe assolutamente prematuro. Senta, noi capiamo che le autorità italiane devono anche tenere conto della necessità di diffondere, per così dire, fiducia tra gli italiani, non panico. Quindi il refrain è: noi non corriamo rischi del Belgio, della Francia. Però la domanda che le faccio è: secondo me non è vero. Ma... Perché noi abbiamo avuto 299 arrestati per terrorismo jihadista in Italia in questi anni di terrorismo, 75 espulsi negli ultimi 15 mesi. E insomma, i numeri e le vicende di questi giorni emerse, i passaporti prodotti nel Salernitano per il gruppo di fuoco franco-belga e così via, insomma, non fanno pensare a un'Italia come paese di puro transito, fanno pensare a un'Italia in cui ci sono reti logistiche stabili e presenti, e le forze di intelligence ci dicono ci sono mille siti italiani che vengono costantemente monitorate dalle forze dell'intelligence del nostro paese proprio alla ricerca di radicamenti territoriali italiani filoterroristi. Insomma, siamo un paese di transito o un rischio vero c'è, Nordio? Ma guardi, sempre per il concetto che esprimevo prima, dovendosi mettere nei panni e nella mente dei terroristi, io credo che abbiano costituito in Italia, come in tutta Europa, una serie di cellule silenti. Credo che queste esplosioni siano la punta di un iceberg, di una polveriera che sta covando. È giusto non fondere l'allarme tra le persone, ma sarebbe anche giusto dire una volta per tutte che siamo in guerra e che non è una guerra, come vorrei essere irriverente, ma insomma, come ha detto il Papa, ispirata dai mercanti di armi o addirittura dall'emarginazione. È una guerra religiosa, è una guerra santa l'altro giorno in in Pakistan si è visto cos'è accaduto ai poveri cristiani, no? Sono stati vittime di mercanti d'armi. È una guerra santa che un'organizzazione ha proclamato nei confronti dell'Occidente, può colpire ovunque, in qualsiasi modo, e bisogna ammettere che è senza difesa, perché un suicida, se anche si allargano le difese al di fuori dei perimetri degli aeroporti, andrà a colpire in ospedale, andrà a colpire una scuola, andrà a colpire ovunque voglia e non sia una protezione adeguata. Quindi questa opera informativa e realistica secondo me sarebbe doverosa anche per capire quanto sia necessario raccogliere le nostre forze culturali e anche militari per combattere questa forma. Poi che in Italia fino adesso non sia accaduto nulla, questo dimostra da un lato che effettivamente, come ho detto prima, noi abbiamo una capacità di intelligence e anche di prevenzione, di controllo territoriale che gli altri paesi non hanno, proprio perché, ahimè, abbiamo questa dolorosa esperienza di terrorismo interno e internazionale. Però, procuratore Nordio, abbiamo letto sui giornali, per esempio, visto che lei è procuratore aggiunto a Venezia, di uno dei terroristi proprio sbarcato, racconta nei giornali, all'aeroporto di Venezia. Si dice alcuni aeroporti sono quelli, diciamo, non delle grandi città, sarebbero minori, meno controllati rispetto a quelli... In effetti quel terrorista era sbarcato proprio nella mia Treviso, io lavoro a Venezia, a Treviso, ma è un'osservazione che non ha senso, perché i documenti non erano segnalati dall'Interpol, degli organismi internazionali, e quindi la persona era una delle tante che transitava. Il problema è che però... Sempre la mancanza di scambio di informazioni, evidentemente. Beh, questa è la mancanza di informazioni, ma io direi anche di più. Oggi è vero che la delinquenza, soprattutto il terrorismo internazionale, dispone di armi tecnologiche avanzate e qualcuna anche elementare, ma molto efficace, no? Si dice che addirittura possono fare gli attentati con le PlayStation. Ma anche noi disponiamo di tecnologie molto avanzate. Allora, noi siamo ancora fermi alla vecchia identificazione con le impronte digitali e talvolta con le fotografie tridimensionali. Io penso che una mappatura del DNA, per esempio, che già è stata fatta in Italia per i detenuti, se fosse fatta a livello proprio globale, potrebbe consentire delle individuazioni in tempo reale di qualsiasi persona che transitasse in qualsiasi posto, anche se non fosse stata segnalata come potenziale terrorista. Ma poi, incrociando i dati e aggregandoli tra di loro, potremmo avere degli spunti investigativi estremamente interessanti. Sì. Adesso non mi dilungo oltre, ma anche noi abbiamo una tecnologia, basta saperla usare e basta avere la voglia di usarla. Va bene, noi intanto, procuratore, la ringraziamo molto, grazie per queste delucidazioni, Carlo Nordio, ricordiamo, procuratore aggiunto di Venezia. Certo che il tono è molto duro. Caro Oscar, quando leggi notizie come sul Corriere che in un comune dell'Olanda, della liberale Olanda, mandano una mail alle dipendenti dicendo loro che è sconsigliato portare le minigonne e gli stivali al ginocchio per non urtare la sensibilità dei tanti stranieri, soprattutto musulmani. La Olanda è quella che ha visto delitti ispirati al jihadismo. Io dico scompariremo presto. Con merito, perché ce lo siamo cercati. E vedi che allora si spiegano anche i toni di Nordio incredibilmente duri, per certi aspetti, che un magistrato parli, guardi, è una guerra religiosa e santa. Stridono col fatto che, visto che eleggono presidente dell'ANM per un solo anno, le correnti della magistratura per Camillo Davigo, peggio dei peggiori partiti, mamma mia che roba. Perché? Perché sì, eleggono solo per un anno, perché siccome Davigo, che è una persona con la schiena dritta, si è rifiutato di fare accordi di correnti, quindi ti mettiamo un anno a un gruppuscolo per i fatti suoi di magistrati con la schiena, allora le correnti dice solo per un anno, va, perché a Davigo non si può dire di no, come le peggiori correnti dei partiti, sì, cose che interessano solo ai magistrati, sì, no, e forse neanche a tutti, e fa bene Davigo a dire scusate, ma andate un pochino. Ti ricordi che Cantone dice non ho pagato, no, poi ha pagato la quota, che ci vuoi fare, va bene, caro Oscar, noi ci dobbiamo fermare qui per oggi, però oggi pomeriggio ci sarà le 4:30, poi domani abbiamo un impegno, caro ascoltatore, noi ci occuperemo di come si paga il canone Rai, ce ne occuperemo, non vi preoccupate. Oggi c'era questo titolo: carcere per chi evade. Fa ridere, però, carcere per chi evade. Ma è uno dei tanti paradossi. Tu lo sai che nelle istruzioni, se lo paghi in online, in telematica, lo devi pagare prima che se paghi invece con la posta ordinaria. Questa è la mentalità dello Stato burocrata. Pensa un po'. Ciao, a domani. Ogni mattina, quando accompagno le mie figlie a scuola, ci auguriamo un buon inizio di giornata così. Bye!